Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. 14 novembre. Sono un po'. Ho questa domanda io. Io vorrei sapere se ti hanno scritto. Lo so, eh. Ti hanno scritto un SMS. Il messaggio semisalvo. No, se mi scordo. No, se mi salvo. Ah, se mi scordo. SMS da Equitalia. No, se mi scordo. Ma quello è un messaggio d'amore, se mi scordo. Invece se mi salvo è la mia reazione. Ah, ecco. Se lo vedo comparire. Equitalia vuol mandare dei messaggi per chi si sta scordando l'ultima rata. Sì. Se mi scordo. Come sono amorevoli. Che ricordiamo tenere. Che oggi, intanto, per ricordarlo, sono in sciopero. Ah, ecco. Ecco. E quindi? Perché protestano per l'annessione autoritaria, dicono loro, ad Agenzia delle Entrate, avendo loro i contratti, e si preoccupano per il loro futuro. Loro si preoccupano per il loro futuro, noi per il nostro. Vabbè, insomma, giustamente, ognuno si preoccupa. Innanzitutto. Per il proprio. E poi però per il bene comune. E il bene comune bisogna vedere se veramente c'è da guadagnare o meno da questa cosa, però lo vedremo solo vivendo. Chi sopravviverà ai morsi delle tasse? Eccolo. Dai, santi! I santi, allora, in questo lunedì. San Giocondo, che è colui che non ha ricevuto l'SMS. Ci vorrebbe Meazza a questo punto, che io sento sempre intervenire entusiasticamente sul fisco, come dice lui con gli avverbi. Io insomma credo che San Giocondo è colui che invece non l'ha ricevuto, vescovo di Bologna, quindi carissimo a chi è fedele a Bologna, uno dei vescovi storici della città, tra gli altri Clementino. E poi questa cosa, tu sai che uno dei miei film quando ero piccolo era Peter O'Toole, protagonista della grande epopea, no? Nel deserto di Lawrence d'Arabia. Oggi è San Lorenzo O'Toole, che non è un suo parente, però è un vescovo irlandese, è uno dei santi più cari all'Irlanda, e mi è sempre piaciuta questa cosa. Che cosa capitava oggi nella storia? Nel 1922 cominciava la radio della BBC, e quindi per noi che facciamo radio, grazie a chi ci ha preceduto. Nel 1951, oggi, la terrificante alluvione del Polesine. Le vittime, insomma, è stato un conto, grazie al cielo, limitato, solo 84, però quasi 200.000 sfollati. Una parte del quartiere in cui sono cresciuto io a Torino, di fronte alla Fiat Mirafiori, era fatto, infatti, da sfollati del Polesine che erano venuti a Torino a lavorare alla Fiat. Compleanni: Carlo De Benedetti, Silvia Tortola, la figlia del grande Tortola, giornalista anche egli, Stefano Gabbana, Max Pezzali, ma oggi era nato anche il papà di Mario Calabresi, Luigi Calabresi, il commissario Calabresi, fece la fine che ha fatto. Eh sì. Allora, sono le 8:22 minuti, Donald Trump ha stupito un po' tutti, vogliamo parlare di questo? Noi abbiamo voluto oggi interrogarci anche sui cattolici per Trump, sai che mi ha molto colpito anche qualche giorno fa quando c'è stato un prete di Mariano Comense che ha detto non si può essere cristiani e stare con Salvini, no? Che si potrebbe mutuare come domanda che vogliamo porre agli ascoltatori anche, si può essere cristiani e stare con uno che dice mandiamo via 2 milioni, 3 milioni di persone? Mi stiamo facendo un po' un piacere, detto così, anche se hai ragione, questo è il punto ed è anche il motivo, uno dei punti su cui ha ruotato la, diciamo così, presentata come intervista, ma non come intervista, di Scalfari al Papa venerdì scorso. Sì. Perché dico, con una battuta mi fa un piacere, perché è un po' come dire Cristo o Barabba, è un po' l'interrogativo di Pilato, la gente, ti ricordo, che scelse Barabba. Quindi da questo punto di vista gli stiamo, caro Matteo Salvini, ti facciamo un favore. Ecco. No, ma la questione è interessante perché, tra l'altro, nella notte, all'una di notte, è stata diffusa la prima intervista di Donald Trump alla CBS. Devo dire che, secondo me, i giornali hanno un pochino, non dico distorto, ma un po' forzato la questione. Cioè, Trump non è che ha detto caccio 2 milioni di persone. Ha detto io voglio cacciare i delinquenti, spacciatori, criminali, quelli delle gang, potrebbero essere 2 milioni, 3 milioni. Per questi c'è o la prigione o essere cacciati, che mi sembra una cosa normalissima. Cioè, cosa dobbiamo fare con uno spacciatore? O lo mettiamo in prigione o cerchiamo di allontanarlo o vogliamo premiarlo. Lui ha detto esattamente quello che stai dicendo, però capisci che la reazione dei giornali sarà quella sempre di forzare. Su questo non illudiamoci. Vogliamo sentire Trump alla CBS, la questione dei milioni di clandestini? What about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants? What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. Cioè dice, queste persone, dice, spacciatori, criminals and criminals, with criminals records, esatto, cioè quelli criminali, che criminali con la ferita penale, con condanne penali, certo, membri di gang, membri di gang, questi qui o in carcere. Forse la cosa che fa colpisce è che lui dice probabilmente sono 2 milioni, è questo sul totale di quasi 12 di immigrati, insomma, clandestini che si stima siano gli Stati forse Uniti. È questo l'accusa dei, come dire, di populismo totale, a dire ma come 2 milioni? 2 milioni sono un po' troppi, però lui dice lo faremo con i criminali, cioè con quelli che hanno dei problemi con la legge. Non è che ha detto prendiamo gli immigrati e li cacciamo a pedate tutti. Certo, lui è anche quello del muro, è anche quello lui di... è anche quello del muro. Naturalmente non so quanti sappiano che lunghi tratti del confine ci sono già le recinzioni, certo, tanto per essere chiari, quindi almeno un migliaio di chilometri. Non è proprio un'idea particolarmente disruptive, cioè di rottura, come può avvenire a capitare a noi che non ce l'abbiamo le recinzioni sui confini. C'è chi le ha proposte, ricordiamoci che i paesi confinanti con noi hanno adottato politiche del tutto simili, ecco perché gli immigrati ci vengono restituiti dalla Svizzera e dall'Austria, non chissà da quali paesi, no? E questo per essere... Solo che io mi aspetto che per lungo tempo la forzatura nei confronti di tutto quello che dirà e farà Trump sarà inevitabile, perché è così. Perché, come devo dire, la reazione al non aver capito e a negare il significato della vittoria di Trump, in molta parte della stampa che ha commesso quell'errore, non induce a un atteggiamento, diciamo così, più attento e più spogliato del pregiudizio. Al contrario, conferma il pregiudizio. No, tra l'altro ricordiamo, secondo il New York Times, il 52% dei cattolici ha votato Donald Trump, ha votato il 45esimo presidente americano. Il 59% di evangelici e così via. Cioè, il voto religioso... Comunque, chi diceva non lo potrà prendere, è un libertino, è un stupratore di donne, eccetera, sì, eccetera, e invece l'ha preso. Esatto, secondo altre stime, appunto, mettendo gli evangelici, la nuova rinascita cristiana, insomma, l'81% ha votato per esempio Trump. Mike Pence, che è vicepresidente, è una figura anche chiave perché governatore, ex senatore, eccetera, eccetera, governatore dell'Indiana. Mike Pence è un antiabortista. Cioè è uno proprio duro, Trump, come devo dire. Anche Trump lo è. Comunque 800-24-0024, chiamateci su questo tema. Noi vogliamo salutare intanto Massimo Gandolfini, che è presidente del comitato Difendiamo i nostri figli e promotore del Family Day. Buongiorno Gandolfini e ben trovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Vogliamo salutare anche Emma Fattorini, che oltre a essere una senatrice del Partito Democratico insegna storia contemporanea alla Sapienza e tra l'altro è appena rientrata proprio dagli Stati Uniti, era lì per controllare tutto a posto, è andata per essere senatrice Fattorini. insomma perché dice insomma, noi vogliamo proprio parlare dell'aspetto anche Trump, la religione, i cattolici, però dice insomma perché si aspettava e sperava, confidava nella vittoria della Clinton. Beh, io ero anche diffidente, cioè insomma la situazione era molto complicata, erano due candidati che avevano dei punti deboli da entrambe le parti dal mio punto di vista, quindi non era, però certo a questo punto si consegna un paese spaccatissimo. Io sono ancora stravolta dal jet lag, ma vengo da tutte quelle manifestazioni, da un sentimento di insomma, cioè di contrapposizione difficilmente ricomponibile con tempi brevi. Insomma, non è una vittoria normale come si vince, no, da tutto. È un repubblicano che segue un... è molto osteggiato dagli stessi democratici. Sì, sì. E beh, insomma, vedremo. Intanto però la accoglie con questa prima intervista in cui dice, no? Via gli spacciatori, via i criminali, faremo i muri. La colpisce il fatto che l'81% di cattolici abbiano votato per Donald Trump? Ma ci sono tanti dati diversi, altri dati dicono 48, altri 51. Io credo che la realtà sia, che è difficile da capire, la realtà sia una percentuale superiore a quella che ha portato per la Clinton, ma insomma, ecco, non semmai del 57, alcuni dicevano, contro il 41, insomma, no, 91 non credo. No, 81, se mettiamo insieme anche gli evangelici, eccetera, certo, il 52% dei cattolici, ma poi mettendo insieme tutte le persone che, che credono. Lì ci sono tanti discorsi da fare, perché sugli evangelici, le sette, c'è tutto il problema interno alle comunità latinoamericane, e quindi, cioè, adesso io parlavo dei cattolici, dei protestanti. Sì. Senta, ma alcuni sono rimasti colpiti, perché a me sono concesso che Scalfari riportasse per esteso e precisamente le parole del suo ultimo colloquio col Papa, anche se che era un aggiornamento poi di una cosa molto precedente. Però alcuni sono rimasti un po' colpiti dal fatto che le parole attribuite a Bergoglio erano molto prudenti, per così dire. Erano? Molto prudenti, cioè... è comprensibile che un Papa dica giudichiamo Trump da quello che farà, sì. Però non si vedeva traccia di quello che magari alcuni si aspettavano, di un giudizio già con le mani avanti, dicendo però già quello che abbiamo visto e sentito in campagna elettorale non è che ci entusiasmi. Però non c'era nelle parole di Bergoglio, solo prudenza, comprensibile per lei? Ma vedi, non lo so, io sarei il del tech, ma io non ho letto prudenza, anzi l'ho letto molto molto duro, netto, anzi anche molto fuori da certe prudenze diplomatiche che ci saranno anche di più, perché comunque il Vaticano è anche uno Stato, cioè non è solo un giudizio così esterno, morale, c'è cioè un discorso di rapporti che si dovrà comunque ristabilire. Io l'ho trovato abbastanza netto quando poi Scalfari gli domanda veramente se lui ritiene che queste differenze sociali devono avere anche una rappresentanza politica, devono essere sostenute sul piano sociale, e lui dice sì, nettamente sì. Quindi è un approccio molto interno, anche a una visione, insisto, latinoamericana, su questo è molto forte. Si ricordava, ha detto il Papa, non giudico Trump, il politico Trump, ma verificherò cosa fa per le persone povere. Cioè, non poteva dire altro, secondo me, perché... ripeto, c'è un rapporto, una dimensione sociale che lui garantisce e che dice io lo faccio in nome della difesa degli ultimi, che è l'aiuto ai deboli, l'inclusione, per usare un termine un po' sì, molto clintoniano della politica del corretto, che è stato usato continuamente nella campagna elettorale, ma insomma di cercare di integrare, ecco, questo è l'attenzione fondamentale della Chiesa sempre. Non so, vediamo particolarmente di Francesco l'ha detto sull'immigrazione. Vogliamo chiedere Europa, anche a Gandolfini che ne pensa, insomma, se queste parole del Papa si aspettava. Adesso non è che Gandolfini è qui per giudicare le parole del Papa, perché, ma cosa si aspettava dal Papa in questo colloquio con Scalfari, Gandolfini? Allora, per carità, fermo restando che non mi permetterei mai di giudicare le parole del Santo Padre, però credo che quello che il Santo Padre abbia detto sia stato anche molto molto saggio. Cioè, bisogna giudicare la persona per gli atti che farà, al di là di quello che si dice, perché si sa tutti che quando si tratta di propaganda elettorale i toni si alzano e magari si sparano cose grosse che non si pensano fino in fondo. È altrettanto vero comunque, perché c'è anche un altro aspetto molto importante. A parte Trump, se guardiamo soprattutto i temi, l'altro candidato, cioè Hillary Clinton, era un candidato che su questi temi certamente non rispecchia il sentire della Chiesa cattolica, e possiamo dire cristiana in generale, ma della Chiesa cattolica. Per cui da una parte c'è certamente, e Papa Bergoglio è di sicuro il portabandiera, l'alfiere mondiale dei deboli, degli emarginati, degli immigrati, dei profughi, e quindi della fascia debolissima della società. Dall'altra parte la Chiesa cattolica, compreso Papa Bergoglio, si è sempre schierata per la difesa della vita, e quando... un candidato come la Clinton dice io liberalizzerò l'aborto fino a giorno prima, è chiaro che non fa stare tranquillo l'animo. C'è da chiedersi se poi questi temi, Oscar, abbiano ancora un'influenza in una campagna elettorale. Per me, ad esempio, non ne avrebbero tantissima, però immagino per Massimo Gandolfini sì. Poi l'America è un po' diversa da noi. In America la componente, ma questo sia nel Partito Democratico sia nel Partito Repubblicano, per come sono diventati, ma anche storicamente nell'Ottocento e dopo la Guerra Civile, in realtà le componenti e le espressioni diverse religiose hanno sempre contato parecchio nell'organizzazione elettorale, nell'accoglienza dei candidati, nel profilo dei candidati e nei temi scelti da ogni singolo candidato in una campagna elettorale a seconda degli stati decisivi. Bisogna ammettere che è così, no? C'è una, da sempre l'importanza del Partito Democratico di una certa componente di voto ebraico, come però nel sud c'è da sempre una certa componente di voto religioso di diverse confessioni. Negli anni, nel ciclo reganiano un grande fenomeno era diventato quello della destra religiosa con grandi protagonisti, se posso dire per farci capire da chi ascolta, alla Don Livio Fanzaga, predicatori radiofonici e televisivi che avevano dato un revival intransigentismo religioso. Tutto il tema dell'aborto come ci è consegnato oggi nasce da quel filone lì oramai 30-40 anni fa, quindi lì è una cosa un po' diversa, certo. A dire la verità. Ci chiama Jerry da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io proprio sono stato una settimana prima, ho fatto due conferenze nell'ambito protestante sia nel Texas che a New York. E sono rimasto stupito piacevolmente che tutte le persone, diversi leaders del mondo protestante fossero tutti uniti, avessero scelto quasi spontaneamente senza nessuna pressione del Partito Repubblicano come è stato in altre volte nel votare Trump. Non pensavo fosse una scelta così, cioè lei l'ha constatato stando lì poco prima delle elezioni. Assolutamente, anche perché era uscita proprio questa lista di cosa Trump avrebbe appoggiato e cosa la Clinton. Ovviamente la Clinton, aborti last minute, matrimoni dello stesso sesso e la non protezione del diritto della Costituzione nelle scuole, all'interno delle scuole, basato su dei principi e dei valori cristiani. Io ripeto, però Gandolfini, queste cose sono pane per i suoi denti, secondo lei sono decisive in una campagna elettorale? Io ritengo di no, ma è il mio personale punto di vista, in uno stato laico, ma evidentemente mi sbaglio? Ma guardi, personalmente, come può ovviamente facilmente immaginare, io li ritengo il tema numero uno per la costruzione di uno Stato di un veramente civile, per cui per me personalmente è così. Ma penso che in buona parte l'analisi che era stata fatta precedentemente la condivido. Cioè, la forza del movimento pro-life negli Stati Uniti non è certo la forza del movimento pro-life in Italia. Là è molto forte, i temi etici sono comunque molto sentiti. Non mi sentirei di dire che è stato eletto perché ma che i temi etici facciano parte dell'agenda politica e abbiano un grosso peso, questo penso proprio sì. E io dico per fortuna che è così. A me è chiaro, questa è la sua posizione. Allora, sentiamo Stefano D'Asti, poi andiamo un attimo in pubblicità e riprendiamo. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ma io sono allibito dalla demonizzazione della stampa italiana su una persona, in questo caso il Presidente degli Stati Uniti, che ha vinto regolarmente le elezioni americane e che comunque deve ancora mettersi a lavorare. Cioè, lo si giudica forse su quello che ha detto in campagna elettorale? Sì, fino a questo momento. Donald Trump ha vinto le elezioni, ora è il Presidente degli Stati Uniti, deve lavorare. Cioè, vedo ancora un certo appunto pregiudizio su una persona che comunque per adesso deve ancora mettersi al lavoro. Cioè, è proprio una questione, e da dei giornalisti, comunque da un'intelligenza che dovrebbe insegnarci qualcosa, mi stupisco. Va bene, Stefano, ma è quello che dicevamo qui anche con Oscar la settimana scorsa, cioè c'è stata una demonizzazione, però, sicuramente. L'effetto è vero, leggo un editoriale a caso di Repubblica oggi, Trump è un bugiardo seriale, è un impostore, è un venditore di fumo, è probabile che i suoi proclami xenofobi resteranno tali, solo rumore e propaganda. Ecco, questo è tutto l'editoriale. Mi fermo, non voglio far polemiche personali, però il tono è la stessa cosa che notavo di Gramellini sugli elettori di Trump venerdì scorso. Poi, per carità, io rispetto tutti i punti di vista, però... No, ma è chiaro. Andiamo un attimo in pubblicità, riprendiamo con Massimo Gandolfini, Emma Fattorini, e tra l'altro lo devo dire perché qualcuno dice ma cosa c'entra in questo caso una senatrice del PD? L'abbiamo detto, è senatrice del PD, ma è anche una studiosa di storia della Chiesa, è docente... È una donna di sinistra... è una donna impegnata per i diritti delle donne. Ma certo. Io ci tengo a dire una fattoria. Ha una cattedratica. Per... Esatto, quindi, insomma, è soprattutto una... per questo. Non, per in favore, quanto... non fateci questo di referendum par condicio. Ah, posso dire, non so neanche Emma Fattorini se per il sì o per no. Parliamo d'altro. Forse glielo chiediamo. Esiste anche qualcos'altro oltre al referendum? Esatto. Scusate se il nostro appello. Mio dopo la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci alle 8 e 43 minuti. Eccoci qua. Questa specie di nido di quaglia, di cincia allegra che si porta appresso questa vela al vento. Questi sono i capelli di Trump secondo Vincenzo De Luca, questo nido di cincia allegra, vabbè, insomma, si sa che lui... Si sa che lui, però, cioè, esiste una questione di opportunità, è l'ombrosiano. Questo è Vincenzo De Luca. Guarda, ci scrive Daniele D'Alecco, dice: sono cresciuto col sistema scolastico statunitense, conosco la loro mentalità, finora abbiamo sentito parlare il candidato Trump, il presidente non ha ancora detto nulla, qualcosa ha già detto, forse se foste americani capireste la differenza tra presidente candidato e presidente eletto, non lo so, sarà... Sarà poi così questa grande... No, comunque, sì, detto questo, noi ci stiamo occupando di una macro contraddizione evidente, cioè il libertino oltraggiosamente spregiatore di qualunque valore del rispetto della vita, del genere, delle donne, dei poveri, eccetera, eccetera, è diventato in realtà... A sorpresa per noi non l'abbiamo capito, un punto di riferimento preferibile a chi evidentemente tutti questi valori li dichiarava, li predicava, ma la gente dice tu sei falsa, se appartiene a un establishment che tutte queste cose se le mette sotto i piedi, cioè Hillary Clinton. Questo è il problema per chi ha fede di qualunque confessione nei confronti perché hanno votato a maggioranza. Questa domanda Emma Fattorini, lei se l'è fatta, lei che era per Hillary Clinton, le si dà una risposta a questo? La contraddizione è stata proprio quella lì. Per quello non andava bene nessuno dei due a un credente, questo era il punto. Io però faccio il passo indietro e vi dico, qui c'è una continuità nella posizione della Chiesa che io condivido molto e che non è quella di separare la questione sociale, l'attenzione agli ultimi con le questioni temi etici. Io ho una visione, io condivido quello che è la miglior tradizione espressa benissimo da questo pontefice, ma anche dai precedenti, che ha una visione molto integrata della vita e della difesa della vita. Quindi un pro-life che non esclude, cioè che tiene insieme il bambino abbandonato, che si trova solo, che viene lasciato abbandonato dai genitori che stanno dall'altra parte del muro o che muore nel mare, quanto riguarda noi e l'Europa, dal bambino che deve nascere. E quindi il tema qual è? È quello dell'idolatria per i credenti, come ha detto bene il pontefice anche l'altro giorno, cioè l'idolatria. Quando c'era il comunismo era l'idolatria dello Stato e quindi il Wojtyła fece grandi lotte per la caduta del muro. E in secondo luogo, con la fide del comunismo diventava il denaro e quindi una diffidenza verso uno sfruttamento, una centralità idolatrica del denaro, come oggi nella figura di Trump. E in terzo luogo, l'idolatria verso un soggettivismo senza limiti, cioè appunto il fatto che uno possa decidere sulla vita di un altro o su se stesso, a prescindere dalle relazioni e dai legami con gli altri, anche con riguardo alle donne, per esempio. Quindi tutto quello che diventa idolatrico e autocentrato e non relazionale, ecco, tutto questo è una vera minaccia. E quindi questo... Però non l'hanno visto così molti, appunto, cattolici e molti di altre confessioni. No, perché il punto è, mi pare di capire, che Emma ci dice, la Fattorini ci dice, il senatore, insomma, comunque la vogliamo chiamare. Si ricorda, Gianni, noi ne parlammo da decenni, esatto, di questo bisogno di integrare queste due anime. Ma il punto è che credo... Che non è un fatto elettorale, è un fatto proprio esistenziale per un credente. È un fatto esistenziale, per moltissimi, esatto. Cioè, ma la questione è che, mi pare di capire, che lei ci dica che... Nel giro democratico, in quel mondo democratico di establishment integrato, di chi ha la fondazione con i principi arabi e utilizza 3 milioni per fare il banchetto alla figlia matrimoniale, hanno visto non li hanno visti nemmeno lì questi valori, questo è il problema, era, no, e questo è anche il punto, il che non significa meno peggio o meno meglio, o un po' meglio. Ma, no, ho capito, scusa, che dici neanche nella, in quel mondo democratico, forse l'avrebbero visto in Bernie Sanders, ma forse. Infatti per questo dico, era difficile anche sostenere una candidatura come quella, proprio perché non vedevi l'autenticità di quei valori lì. E io l'ho vista in una disperazione. Però molti pensavano, donne. Però la lunga coda della presidenza Obama, eticissima, eccetera, eccetera, è una specie di grande manto sotto cui nascondere anche gli evidenti macro difetti di Hillary Rodham Clinton. Non ha funzionato neanche un po' questa cosa. No, ma questo però era una cosa annunciata, e lì è un problema. Sì, che avessero, però adesso col senno di poi, che avessero trovato un candidato non molto amato in Hillary Clinton. No, ma questo non è senno di poi, anche senno di prima, perché prima lì era il giorno prima, era tutti che si turavano il naso, lo dicevano, facevano. Cioè, era una cosa. Però interessante, e vorrei capire a Gandolfini, questa visione un po' idolatrica, come la definite Emma Fattorini, nel rapporto col denaro, Trump è molto ricco, nello sfrenato individualismo, nel magari anche disprezzo verso alcuni individui rispetto a altri, Gandolfini, lei non riconosce un Trump che ha poco una visione cristiana? Sì, indubitabilmente, cioè... Per quanto riguarda il discorso che si stava facendo in precedenza, tutti i pontefici, ma oserei dire è il magistero proprio della Chiesa che insegna a rispettare la vita dal concepimento alla morte naturale, per cui in tutte le sue fasi, quindi le fasi di inizio e fine, ma naturalmente in tutte le fasi che ci stanno in mezzo, per cui il Santo Padre attuale, ma anche tutti i precedenti, sempre si sono battuti, e sempre la Chiesa, che non deve fare altro che interpretare le parole di Cristo, si batterà su questi grandi temi. Sul fatto che Trump persona, cioè soggetto privato, non sia certamente, come dire, l'epigone dei valori cristiani, penso che sia sotto gli occhi di tutti, non spetta a noi ovviamente fare giudizi sulla persona, però vorrei sottolineare un aspetto. Una persona massimamente coerente con le cose che dice è indubitabilmente un grande valore. Ma se io mi trovo a essere con le spalle al muro e devo scegliere tra una persona che nella sua vita privata è una buona persona, ma che propaga idee che sono contro la vita, contro la famiglia e quant'altro, e una persona che non è coerente, ma che però propugna e sostiene a livello sociale questi valori, io preferisco pensare, non c'è un po' di ipocrisia, però in può darsi che ci sia un po' di ipocrisia, come può anche darsi che ci sia un po', come dire, di interesse personale, di scelta di strategia, indubitabilmente è così, ma diventa merce sempre più rara la coerenza tra la vita personale e la vita sociale. No, ma poi voglio dire, c'è un macro paradosso in Italia, voglio dire, oggi i giornali sono pieni di nuovo, non oggi, questi giorni sarà sempre più così man mano che ci si avvicina al referendum e poi nel dopo referendum, della destra che litiga, per capirci, cioè da una parte la Lega, dall'altra Berlusconi, dall'altra Parisi, eccetera eccetera. Se uno va a vedere i temi di cui stiamo parlando oggi e che invece comunque hanno un grande rilievo in ogni scelta pubblica americana, lì, perdonatemi, non ci sono, perché nella realtà vera della questione di leadership della destra, che ogni tanto si pieghi il cappello e il ginocchio di fronte ai temi che le persone come Gandolfini portano nella loro attività civile, prima che politica, civile pubblica, la destra si fa una specie di riconoscimento, ma lo fa quando è utile, perché per il resto questi temi non ci sono nel dibattito pubblico. Questa è la verità vera, perché quando Alessandro Milan fa presente il diverso peso che questi temi hanno, l'Italia si è completamente liberata di queste cose. Poi contano come per alcuni, però la politica non ci fa più caso, li usa, anzi li usa secondo me, ma questa è una mia opinione, li tira per la strumentalmente, no? Dopodiché faccio l'esempio oggi per Luigi Battista su Corriere della Sera, ci ricorda un altro tema, e lo dico per chi la pensa diversamente, la pensa un po' come me. Sono passati 7 anni dal caso Englaro, sul caso Englaro enorme polemica eccetera eccetera, poi non è successo niente, mica abbiamo né la legge né non la legge, e quindi come facciamo? Come sempre in Italia, sul testamento è l'unica volontà, continuiamo ad affidarci in realtà a un ipocrita a far finta di non sapere, che è come se ci fosse alle disposizioni, però per chi può, fino al prossimo caso, per chi non può, naturalmente non ci sono, che per me, e io rispetto chi la pensa diversamente, è un'ipocrisia classicamente italiana, però ecco per dire. Sentiamo Giacomo, ci chiama da Livorno. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io concordo con le ultime parole che avete detto, sì, soprattutto con la parola ipocrisia, che secondo me è di tutti fuorché di Trump. Trump ha detto che non vuole poveri ispanici, che vuole le armi nelle scuole da parte dei professori, ha tre mogli, è un puttaniere, ce l'ha di tutte, di cattolico non ha niente. Tutti si ammantano con volerlo vedere come il candidato più cattolico, tale non mi sembra. No, non tanto però... cattolico, l'ha spiegato bene Gandolfini, dice, no? Però su alcune tematiche, l'aborto e su altre tematiche care, per esempio a Gandolfini, alcune persone, è chiaro. Forse non ha certamente quella coerenza, Gandolfini ce l'ha appena spiegato, no Gandolfini? Però per concludere, perché abbiamo 30 secondi, Giacomo da Livorno puntava l'accento in maniera anche un po' più, più colorita su queste contraddizioni, cioè Gandolfini un po' è turarsi il naso al dire... Sì, un po' è senz'altro turarsi il naso, però guardi che quello, le affermazioni ultime che lei stava facendo, che condivido, il problema grosso anche della vicenda Trump è che si è svelato che il sentire comune della gente è terribilmente scollato rispetto all'establishment politico. Per cui oggi ci troviamo anche in Italia con una classe politica che non interpreta i comuni profondi sentire i sentimenti della gente. E questo scollamento che riguarda il centrodestra, ma che riguarda anche il centrosinistra, è veramente molto grave. Il popolo non si sente più rappresentato ed è per quello che il popolo è costretto o a scendere in piazza per far sentire la propria voce o usare gli strumenti che ha per dire alla classe politica: io non mi riconosco più in te. E in questo la classe politica dovrebbe fare una seria meditazione. Ah, sì, quali sì. sono i sentimenti della gente? Che non interpretiamo più. Esatto. No, ma è chiaro. Noi vi ringraziamo, Massimo Gandolfini e Emma Fattorini. Io volevo sapere da Emma se era andata a fare una sì. manifestazione per il CEO per il Nomadi. Vediamo, non so, Emma Fattorini è andata a fare una manifestazione, ma all'estero? No, no, io sono andata per fare un monitoraggio elettorale per conto dell'OSCE. Okay. Ma io sono assolutamente per il sì, proprio per quello che dicevate adesso in conclusione, proprio per quello che diceva Gandolfini. Questo scollamento è il problema. Lo scollamento non si risolve con questioni ideologiche, estremizzando sì. i temi bioetici, ma andando incontro alle esigenze vere delle persone. Che sono i valori e sono il disagio, la disperazione sociale. E adesso, avendo toccato il tema, Alessandro, ci tocca recuperare il minutaggio, se no ci bastona. No, no, perché io ringrazio. Dico no, dico tre no. Ma poi viviamo la tragedia della par condicio. È la par condicio, mamma mia, vabbè. Allora dai, ci fermiamo qui, grazie a Peter Bescapè in regia insieme a Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione. Caro Oscar, tu alle 16.30 mi è arrivato un sms, speriamo che non sia l'agenzia delle... Se mi scordo, ciao.